Oh, buongiorno, Alien Sapiens, buongiorno. Benvenuti. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì, sì, sì. Oh, sono molto contento. Allora, io sono Dario Bava. Un piacere. E sono qui per produrre il vostro EP. Già. Quindi, ditemi un po', ragazzi, che cosa, che genere fate voi? Noi facciamo rap. Oh, sì. Rap! Molto bene, un genere molto in voga ultimamente. Sì. Ok, allora ho qua i vostri curriculum. Ok, allora voi avete fatto Brother and Sister Classic. Sì, sì, sì. Esattori delle tasse inediti. Sì, lasciamo perdere. Fronte Reto Sbobademo. Yes. Scusate ragazzi, ma era materiale pornografico questo? Ma no, no, io no, faccio no. Questo genere di cose. Ma si figuri non il signor Bava. Ah, ok, ora capisco perfettamente. Allora ragazzi, come sapete io produrrò il vostro EP, produrrò dei videoclip che faremo da questi pezzi. Ma mi raccomando, dobbiamo vendere. Quindi voglio che tutto sia sobrio ed elegante. Ok ragazzi? Non si preoccupi, signor Bava, sobrietà ed eleganza.